Buongiorno, le notizie in 60 minuti di Simone Spezia. Riapre il tratto della metro di Roma chiuso per un pacco sospetto. A Bruxelles nuove perquisizioni della polizia e un arresto, ancora incertezza su chi siano gli jihadisti morti nell'assalto di ieri a Parigi. Il premier francese Valls evoca il rischio di armi chimiche nelle mani di ISIS. Anche il Belgio annuncia nuove misure, 400 milioni per la sicurezza. L'Europa rafforza i controlli alle frontiere, la decisione forse domani nella riunione del Consiglio dei Ministri degli Interni, si allargano le maglie del patto di stabilità. Più soddisfatti della situazione economica, meno fiduciosi negli altri, ecco gli italiani secondo il rapporto dell'Istat. Andrà all'asta la medaglia del Nobel per la letteratura ricevuto da Salvatore Quasimodo, si parte da 50.000 euro. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti effettogiorno@radio24.it, il numero di sms 349-238-6666 e WhatsApp, il numero è lo stesso, 349-238-6666. In apertura anche oggi le cronache che seguono gli attentati di venerdì a Parigi, nei quali sono morte 129 persone. Tra Belgio e Francia proseguono i blitz per catturare autori, menti e persone collegate alla strage. Se ieri vi abbiamo raccontato l'assalto della polizia nel quartiere parigino di Saint-Denis, oggi torniamo in Belgio, dove sono 6 le operazioni che si sono svolte questa mattina. Nel frattempo parla il primo ministro francese Valls, che per la prima volta, come sentivate dai titoli, evoca il rischio di armi chimiche o batteriologiche nelle mani dell'autoproclamato califfato, mentre proseguono gli allarmi. Quello di questa mattina ha riguardato Roma per un pacco sospetto alla stazione Lepanto della metropolitana. In diretta Alessandra Schepisi. Buongiorno Alessandra. Sì, buongiorno Simone. Un allarme è scattato nel cuore di Roma, a due passi dal Vaticano, intorno alle 10.45, rientrato circa mezz'ora fa. La stazione Lepanto della metropolitana è stata evacuata a causa di un pacco sospetto trovato sulla banchina in direzione a Nagnina. La segnalazione era arrivata da alcuni passanti, quali hanno avvertito i militari dell'esercito che da qualche giorno presidiano l'intera linea. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, le squadre cinofili per gli accertamenti e la metropolitana è rimasta chiusa per circa un'ora da Termini a Ottaviano, dopodiché l'allerta è rientrata. Si trattava solo di un sacchetto con vetri rotti. Ora il traffico è ritornato alla normalità, ma di certo l'attenzione a Roma è ai massimi livelli in queste ore, soprattutto dopo l'avvertimento arrivato ieri dall'FBI, che ha inviato alle autorità di sicurezza italiane una segnalazione in cui vengono indicati la Basilica di San Pietro a Roma, il Duomo e la Scala di Milano come possibili obiettivi di un attentato, così come luoghi di aggregazione di culto. Ma non solo, in questa segnalazione vengono anche indicati i nominativi di 5 soggetti arabi che potrebbero essere presenti nel nostro paese e personaggi sospetti da ricercare. Una segnalazione in realtà contenente elementi generici, senza indicazione di piani, di tempo e di modalità, ma le misure di sicurezza sono state ulteriormente innalzate sia a Roma sia a Milano. A Milano questa mattina riunione del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, mentre poco fa il prefetto di Roma Gabrielli ha comunicato che è stata ampliata la no-fly zone, dunque ci sono alcune zone della capitale, praticamente tutta la città, ha detto Gabrielli, che sono interdette al volo aereo per tutto il periodo del giubileo. E infine le forze di sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Gentiloni, stanno lavorando da ieri pomeriggio per identificare 5 nominativi di queste persone sospette indicate dall'FBI. E per ora da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi, torneremo a parlare con te più avanti nel corso della trasmissione intorno alle 13.15, 13.20. Noi adesso andiamo alla cronaca invece di quello che è successo questa mattina in Belgio, dei nuovi blitz, delle nuove perquisizioni della polizia, ma anche di questa grande incertezza che circonda i nomi delle persone uccise nel blitz di ieri a Saint-Denis. Sentiamo. A Bruxelles un nuovo fermo, nel quartiere di Leuken, dove si trova l'Atomium e la residenza dei reali del Belgio. È qui che in mattinata è rientrato un allarme bomba scattato a seguito della testimonianza di un residente che aveva detto di aver sentito qualcuno gridare che stava per esplodere un ordigno. Ma le perquisizioni della polizia in Belgio oggi hanno riguardato anche altre 6 zone di Bruxelles, tra cui Molenbeek, al setaccio le abitazioni di persone direttamente legate a Bilal Hadfi, uno dei kamikaze dello Stade de France che risulta avesse combattuto in Siria nelle file dell'ISIS. Intanto non vi è ancora alcuna certezza sulla sorte di altri due attentatori. Quello che è considerato il cervello degli attacchi di Parigi, Abdelhamid Abaoud, e il super ricercato Salah Abdeslam, tre terroristi del Bataclan, sarebbero morti nel corso dell'attacco della polizia a Saint-Denis, secondo media del Belgio, tra cui il quotidiano La Dernière Heure, e anche secondo il Washington Post, che cita fonti dell'intelligence. Sarebbero invece entrambi ancora vivi, secondo la TV pubblica belga francofona RTBF, che cita fonti ufficiali belghe e ambienti vicini all'inchiesta. Nessun aiuto è arrivato dal procuratore di Parigi, François Molen, il quale si è limitato a dire che i due non sono tra gli 8 arrestati nel blitz di Saint-Denis, senza precisare se siano tra gli uccisi, il cui numero e identità, ha sottolineato il procuratore, è ancora da definire. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Veniamo al fronte politico, che oggi vede l'intervento del premier francese Valls e gli annunci che arrivano dal Belgio. Ha parlato stamattina di nuovo anche il presidente francese Hollande. Facciamo il punto. La France ne doit pas se perdre pour gagner la guerre. La Francia non deve perdersi per vincere la guerra, lo ha detto il presidente francese François Hollande in un discorso questa mattina alla Fondazione Chirac. La Francia, ha detto Hollande, risponderà all'odio con la fratellanza. Non autorizzeremo nulla che possa far pensare che ci possa essere un singolo cittadino che venga aggredito per il suo credo. Tutto questo mentre oggi i deputati dell'Assemblea nazionale francese votano il progetto di legge che rafforza lo stato di emergenza decretato dal presidente già venerdì sera e mentre il premier Valls non esclude il rischio che i terroristi usino armi chimiche e batteriologiche in futuri attacchi. Anche il Belgio aumenta intanto gli sforzi contro il terrorismo. Il primo ministro Michel ha annunciato un ulteriore stanziamento di 400 milioni di euro per potenziare l'intelligence e non sono escluse modifiche alla Costituzione. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parte il coordinamento, l'abbiamo visto in queste ore, tra l'intelligence europea e quella, insomma, tra l'intelligence europea tra loro e con quella americana. Sentiamo l'analisi di Daniele Biacchessi. Nelle ore successive agli attacchi dei terroristi a Parigi, una fonte qualificata dei nostri servizi ammetteva che ciò che era accaduto era anche frutto del mancato coordinamento tra varie intelligence e alla sottovalutazione del pericolo. Pochi giorni dopo, lo scambio di informazioni sulle attività dei gruppi jihadisti pare funzionare. La pista che ha portato le forze speciali francesi a Saint-Denis, nella periferia di Parigi, è anche frutto di questa nuova collaborazione tra vari apparati dello Stato. L'operazione che ha smantellato la cellula terroristica di Molenbeek, quartiere della cintura di Bruxelles, è di marca franco-belga. Le informazioni che hanno sventato alcuni attacchi ad Hannover, prima di Germania-Olanda, giungono dai servizi inglesi e americani, così come proviene dall'FBI americana l'allerta su possibili attentati in Italia contro San Pietro, Duomo di Milano, sinagoghe e altri luoghi simbolici. Non sappiamo dire se si tratta di un nuovo corso dell'intelligence, ma è certo che l'acutizzarsi del pericolo costringe poi gli apparati, spesso in lotta tra loro, a trovare l'unità operativa. Daniele Biacchessi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per quanto riguarda l'Europa, sarebbe alle viste un rafforzamento dei controlli alle frontiere, oltre che, questo è stato annunciato ieri da Juncker, un allargamento delle maglie del patto di stabilità. Dopo gli attacchi a Parigi, l'Unione Europea si blinda e gli Stati membri si impegnano ad effettuare necessari controlli sistematici e coordinati alle frontiere esterne, anche per i cittadini dell'area di libera circolazione. Questo è quanto scritto nella bozza di conclusioni del Consiglio degli Interni straordinario. Mentre è certa l'approvazione della flessibilità per le spese eccezionali contro il terrorismo, ad annunciarlo ufficialmente il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, che definisce gli attacchi di Parigi come atti di guerra compiuti in Europa e parla dell'ISIS come il nemico numero uno per l'Europa. La Francia, sottolinea il presidente della Commissione, deve affrontare gravi atti di terrorismo e affrontare anche spese supplementari che non possono avere lo stesso trattamento di altre spese rispetto al patto di stabilità, un principio che dovrà valere anche per gli altri stati. Quella della Commissione è una scelta che apre la strada a un lungo processo per avere una politica estera comune e una difesa comune, dice Giovanni Lavia, europarlamentare dei Popolari. È il primo passo di un lungo processo che dobbiamo fare per avere una difesa comune e una politica estera comune. Quelli sono gli obiettivi. Per arrivarci dobbiamo passare anche da passi come quello di socializzare con delle clausole di flessibilità la spesa addizionale legata alla lotta antiterrorismo. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per chiudere almeno momentaneamente questa pagina, poi ci torneremo più avanti nel corso della trasmissione, ci sono le dichiarazioni arrivate pochi istanti fa dal governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, in una conferenza all'Ocse. Dice: gli attentati di Parigi aggiungono il loro peso negativo sulla fiducia e aumentano il livello di incertezza in un quadro economico ancora fragile nei paesi avanzati e specie in quelli dell'euro. Come si diceva, torneremo a parlare di tutto questo più avanti, torneremo a collegarci come abbiamo fatto nei giorni scorsi con Molenbeek, il quartiere di Bruxelles, dove molti arresti sono avvenuti e da dove provenivano alcuni dei terroristi protagonisti delle stragi di Parigi. Parleremo con un rappresentante delle comunità musulmane in Italia di una manifestazione che hanno convocato per la giornata di sabato contro il terrorismo, e parleremo col capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Perché molto del proselitismo che viene fatto avviene proprio nelle carceri. Tutto questo dunque parleremo più avanti, e ci occuperemo anche del Libano, dove c'è stato un assalto nella notte a una pattuglia italiana, per fortuna senza feriti. Intanto cambiamo argomento e passiamo a parlare dell'Istat, perché cresce la quota di persone soddisfatte della propria situazione economica, dal 43,4% del 2014 al 47,5% del 2015, livelli più alti dal 2011. Gli italiani danno poi un voto di 6,8 alla soddisfazione sulla loro vita, lo stesso dal 2012. Linda Laura Sabbadini, direttore del Dipartimento Statistiche Sociali ed Ambientali dell'Istat, intervistata da Adriana Fracchia. Cresce la soddisfazione nei confronti delle relazioni familiari, degli amici, del tempo libero e anche della situazione economica, di più di 4 punti percentuali. Emergono alcune criticità, in particolare il rischio di criminalità, ma anche il traffico, la difficoltà di parcheggio soprattutto nelle grandi città, l'inquinamento dell'aria. Per quanto riguarda il nord, la crescita è più forte per il rischio di criminalità, anche come effetto dei tanti anni in cui durante la crisi la criminalità predatoria è cresciuta, furti d'abitazione, rapine e anche scippi, borseggi e così via. Mentre nel sud un problema grosso che emerge è quello della irregolarità nell'erogazione dell'acqua, l'abbiamo sentito anche nelle cronache degli ultimi giorni, e siamo arrivati a un 18% di famiglie che si lamentano su questo. C'è un altro punto interessante che riguarda la sfiducia nel prossimo. Sì, è un dato che è emerso in particolare nel 2015. La fiducia nel prossimo è diminuita, ma questo non è un caso che avvenga proprio in una fase in cui episodi di corruzione in generale si stanno diffondendo nel paese e minano alle fondamenta la coesione sociale del paese stesso. Intervenuto a Mix 24, intervistato dunque da Giovanni Minoli, il presidente dell'INPS Tito Beri torna sulla proposta di riforma del sistema pensionistico che al momento il governo ha bocciato. Nella proposta si prevede tra l'altro la possibilità di abbandonare il lavoro prima rinunciando ad una parte dei soldi e il taglio delle pensioni calcolate col metodo retributivo, ossia sulla base non di quanto si è versato ma di quanto si è guadagnato, e superiori ai 3.500 euro. Sentiamo Boeri proprio appunto al microfono di Giovanni Minoli. Il punto di partenza è che noi vogliamo rendere il sistema non soltanto finanziariamente ma anche socialmente sostenibile. Perché siccome c'è un patto tra generazioni, dovrebbe, se le persone non lo percepiscono come equo, questo patto rischia di non reggere. Negli ultimi 24 anni però sono state cambiate 10 volte i meccanismi di indicizzazione. E questo è lo scandalo, sono perfettamente d'accordo. Un pensionato che si sente perseguitato c'ha ragione allora. In questo sicuramente gli do ragione. Difatti noi proponiamo di fare la riforma definitiva e non è più indiscriminata come questa. Noi andiamo a colpire 230.000 persone, sono 230.000 su una platea di 16 milioni di persone, di pensionati. Dai pensionati passiamo ai giovani, perché è arrivato alla sua 22esima edizione, è in corso il convegno annuale di Orienta Giovani, un ciclo di iniziative organizzato da Confindustria per aiutare proprio i giovani a orientarsi verso il mondo del lavoro, in particolare quello tecnico. Sta seguendo i lavori la nostra Anna Marino. Anna, buongiorno. No, non ce l'abbiamo, non abbiamo la diretta con Anna Marino, e dunque andiamo a parlare dell'asta per la medaglia del Nobel vinto da Salvatore Quasimodo, andrà all'asta il 2 dicembre, sentiamo. sono solo un simbolo. L'importante è quello che c'è dietro. Non deve dunque stupire che a volte gli eredi di Nobel mettano all'asta i premi, anche se capita raramente. Finora sono stati trattati solo 16 esemplari. Il prossimo sarà però di un Nobel italiano ed è la prima volta che capita. Il 2 dicembre andrà all'asta da Bolaffi a Torino la medaglia d'oro 23 carati ricevuta da Salvatore Quasimodo, Nobel per la letteratura nel 59, uno dei 6 italiani a fregiarsi del titolo in questo campo. Base d'asta 50.000 euro e si stima di arrivare fra i 100.000 e i 150.000 euro per il lotto che comprende, oltre alla medaglia, il diploma, due fogli manoscritti miniati su pergamena, la foto di Quasimodo, utilizzata come ritratto ufficiale dall'Accademia di Svezia, il DVD con la cerimonia di consegna del premio. Una parte delle commissioni di vendita, circa 20.000 euro, diventerà una borsa di studio per un corso di laurea triennale a Milano per lo studente più meritevole dell'Istituto Tecnico IACI di Messina, scuola che Quasimodo frequentò. Staremo a vedere chi si aggiudicherà quello che l'amministratore delegato del gruppo Bolaffi, Filippo Bolaffi, ha definito un frammento di storia della letteratura del Novecento e un simbolo assoluto di immortalità culturale. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dunque adesso forse siamo in grado di collegarci con la nostra Anna Marino, che è al convegno annuale di Orienta Giovani. Anna, eccoci, buongiorno. Sì, buongiorno a te Simone, buongiorno agli ascoltatori. Un consiglio per i giovani, che è anche un appello per il governo: senza imprese non si riparte, avverte il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi a margine della giornata Orienta Giovani che si è appena chiusa, la 22esima organizzata da Confindustria e dall'Associazione degli Industriali di Milano, Monza e Brianza, dedicata quest'anno all'istruzione tecnica superiore, premiati 10 studenti su 40.000 coinvolti nel progetto Ponte con 60.000 imprese, perché ci sono già e si possono trovare fin da ora i ragazzi competenti, talenti utili per imprese, come ci ha detto il presidente Squinzi, ma c'è un nodo. Sentiamo. Il problema vero è che non riusciamo in questo momento a dare una speranza a tutti i ragazzi che escono dalle nostre scuole. La situazione economica è quello che è e poi credo che non ci sia ancora una determinazione così forte ad andare nella direzione dell'industria, del manifatturiero, e comunque noi imprese siamo pronti, ce la metteremo tutta per assorbire il più possibile di chi esce dalle nostre scuole. Si può fare quindi di più nell'alternanza scuola-lavoro, già prevista nella riforma della buona scuola che diventerà legge a luglio, spiega il vicepresidente per l'education di Confindustria Ivan Lobello, e anche perché la domanda c'è, e questa è la buona notizia: in Italia si stima che manchino nel mercato del lavoro ogni anno circa 100.000 tecnici intermedi, profili professionali necessari per le imprese, spiega il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca. Con gli ITS ne stiamo formando 2.000 o 3.000 all'anno, dice Rocca, ma c'è ancora spazio per costruire il lavoro del futuro. E per ora è tutto. E grazie alla nostra Anna Marino. Noi adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi torneremo alle cronache dopo Parigi. Ritorneremo a Roma per sentire che cosa succede, rientreremo nel quartiere Molenbeek di Bruxelles e poi parleremo con il capo dell'amministrazione penitenziaria. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Siamo di nuovo in diretta, i nostri titoli: ha riaperto il tratto della metro di Roma chiuso per un pacco sospetto, a Bruxelles intanto nuove perquisizioni e un arresto. Il premier francese Valls evoca il rischio di armi chimiche nelle mani di ISIS, l'Europa rafforzerà i controlli alle frontiere. Più soddisfatti della situazione economica, meno fiduciosi negli altri, ecco gli italiani secondo il rapporto dell'Istat. Andrà all'asta, lo avete sentito, la medaglia del Nobel per la letteratura ricevuto da Salvatore Quasimodo, base d'asta 50.000 euro. Di nuovo con Alessandra Schepisi in diretta da Roma per questo allarme, in realtà pacco sospetto, e poi si è rivelato essere un sacchetto di vetri, ci dicevi Alessandra? Sì, un sacchetto di vetri rotti, in realtà i resti di un narghilè, e dunque un allarme che è rientrato. Il traffico, lo confermiamo, è tornato alla normalità dopo la riapertura della stazione di Lepanto poco dopo le 12.30 e la segnalazione era arrivata da un passeggero della metropolitana che aveva visto questo sacchetto lasciato incustodito sulla banchina e che così aveva avvertito i militari dell'esercito. Dunque falsa allarme, ma che la dice lunga sull'atmosfera che si respira qui nella capitale, dove l'attenzione tensione ai massimi livelli. Nelle ultime 24 ore infatti si sono susseguiti più falsi allarmi. Intanto inevitabili le ripercussioni sul turismo. Federalberghi fa sapere che i tour che passavano per Parigi e arrivavano a Roma sono stati quasi tutti cancellati. A venir meno sono stati soprattutto i potenziali visitatori provenienti dal sud-est asiatico, Giappone, Cina, Corea. E da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi. E ritorna a noi Annalisa Cadaleta, assessore alla cultura della municipalità di Molenbeek, che è il quartiere di Bruxelles dal quale venivano una parte dei terroristi che hanno colpito a Parigi. È stata già nostro ospite nei giorni scorsi, ma l'abbiamo voluta richiamare. Buongiorno Cadaleta, bentornata e grazie di aver accettato l'invito. Buongiorno. Allora, il quartiere, da quel che vediamo, oggi c'è stato un altro blitz, non solamente nel vostro quartiere, ci sono stati 6 perquisizioni della polizia un po' in tutta la città, però vediamo che il vostro quartiere resta, per così dire, al centro di tutto. Ci sembra da qua quasi sotto assedio. È effettivamente così? Come vi sentite? Ci dà un'idea? Allora, prima momento l'assedio, diciamo, che pesa di più è quello dei giornalisti, se voglio essere sinceri, perché c'è stampa da tutto il mondo che viene a Molenbeek e quindi questo crea anche una parte della popolazione un sentimento un po' particolare. Per il resto la situazione rimane abbastanza tranquilla nelle strade. Oggi c'era il mercato che si è tenuto come tutti i giovedì, pieno di gente viene a fare le sue spese, eccetera. Quindi in questo senso trovo che la situazione rimane abbastanza tranquilla. C'è una reazione dei cittadini del quartiere, da quel che ha verificato lei, dopo quello che è successo? Cioè, se sono a conoscenza di qualcosa si muovono, denunciano, parlano, perché appunto, come abbiamo detto, un pezzo di quel radicalismo islamico che ha colpito a Parigi si annidava proprio là e nasceva proprio là. Allora, c'è stata, diciamo, una reazione più di fondo, che è stata quella di riunirsi ieri sulla piazza comunale. Sono venute 3.000 persone con lo slogan diamo luce a Molenbeek, diamo luce al comune. Quindi questa è stata una prima reazione delle persone che volevano raccogliersi in un momento di solidarietà con quello che è successo a Parigi, ma allo stesso tempo mostrare che tutto il comune, la parte sana, che è la stragrandissima parte della popolazione, la parte sana di Molenbeek, si riunisce contro certi atti, è solidare e cerca insieme delle soluzioni per il futuro. Per il resto la popolazione è sempre stata, diciamo, allerta alle cose che succedevano. Allora, quello che probabilmente è cambiato rispetto al passato è che adesso c'è una reazione più pronta e più rapida da parte dei servizi di polizia. Sento una cosa, passati i blitz, esiste un piano più profondo per ripulire quella parte evidentemente di minoranza del quartiere, come ci diceva lei, che è soggetta, per così dire, alla propaganda jihadista? Allora, oggi proprio alcune ore fa il primo ministro del Belgio ha presentato un piano alla Camera che, tra tutti, diciamo, gli aspetti vari, c'era proprio un piano per Molenbeek che avrà delle misure legate all'aspetto di repressione e all'aspetto veramente di sicurezza, ma anche delle misure che riguardano piuttosto l'aspetto di prevenzione. Quindi al governo federale c'è stata già una prima reazione e a livello comunale, oltre al lavoro che già facciamo da 3 anni per costruire un dialogo e delle forme di partecipazione democratica nella popolazione, stiamo mettendo in piedi tutta una serie di incontri, io personalmente tutta una serie di incontri con la popolazione per fare quello che secondo me è fondamentale partire dai prossimi giorni, e ricostruire la fiducia della popolazione nelle istituzioni democratiche e la fiducia della popolazione fra le diverse parti della popolazione che conta il nostro comune, la fiducia fra di loro e non altro elemento, la fiducia nel futuro, perché è estremamente importante che continuiamo a tutti a lavorare insieme per un futuro migliore. La ringrazio, grazie ad Annalisa Cadaleta, assessore alla cultura del quartiere di Molenbeek, appunto questo quartiere di Bruxelles dove, come abbiamo raccontato, c'erano alcuni degli jihadisti che hanno colpito a Parigi. Grazie per aver accettato il nostro invito. A Santi Consolo, capo del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno a lei e buon lavoro. Oggi abbiamo letto un pezzo, un servizio sul Corriere della Sera, firma Giovanni Bianconi, che parla di misure più stringenti per una serie di persone che, con linguaggio di polizia, potremmo definire attenzionate all'interno delle carceri italiane, ossia come dire, persone che hanno manifestato simpatie nei confronti del jihadismo. Misure più dure, leggiamo, per 87 detenuti. Ci conferma questa cifra, Consolo? Guardi, io posso semplicemente dire che non mi piace parlare di misure più dure, ma sono misure che comportano una più penetrante verifica e maggiori controlli. Maggiori controlli complessivamente. Lei ha anche chiesto a, come dire, a tutte le carceri in sostanza di fare, di prestare massima attenzione ai segnali che possono arrivare da là, no? Sì, io quello che vado ripetendo è che noi già da tempo, nel corso di questo 2015, abbiamo già predisposto delle misure e le abbiamo intensificate dopo i primi attentati di Parigi, quindi nel marzo del 2015, e impegnando in sinergia tutte le nostre articolazioni. Mi riferisco al nucleo investigativo centrale, alla sala situazioni, che funziona molto bene e che è in collegamento continuo e diretto con i quasi 200 istituti che sono disimpegnati nel territorio nazionale, e soprattutto noi ci raccordiamo anche con la Procura Nazionale Antimafia, che ha nuove competenze in questo settore. Che sono quelle antiterrorismo, come, come sì, sappiamo. Sì. Ci dà, allora, per dare qualche numero ai nostri ascoltatori e del perché parliamo di tutto questo, un terzo dei detenuti in Italia è straniero, 10.000 circa sono quelli di religione... Più di 10.000 sono quelli di religione musulmana, e c'è un rischio più volte segnalato in realtà che il radicalismo attecchisca proprio nelle carceri, è così, consolo? Guardi, la persona che vive una dimensione di disagio è più fragile delle altre, quindi è suscettibile di condizionamento da parte di personalità forti che fanno vedere, che prospettano anche delle scelte violente. Ecco perché io ho chiesto e ho formalizzato una richiesta di implementazione dei nostri organici, degli strumenti che ci devono essere messi a disposizione per poter contrastare il fenomeno e soprattutto di un supporto tecnico, anche linguistico, per poter comprendere meglio il fenomeno. Quindi più, risorse, mi scusi. Su questo, no, io non è la solita richiesta di risorse. Io credo che su questo settore bisogna porre moltissima attenzione, perché il profilo trattamentale è importantissimo. Noi dobbiamo intervenire laddove veramente c'è un rischio di radicalizzazione e di estremismo violento, ma laddove invece è possibile recuperare la persona ristretta, allora dobbiamo intervenire cercando di comprendere il disagio e di aiutarlo. La ringrazio, grazie a Santi Consolo, capo del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, che è il dipartimento della nostra pubblica amministrazione, appunto, che sostanzialmente si occupa delle carceri. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire tra un attimo che cosa succede in borsa e poi nella seconda parte della trasmissione andremo in Libano, dove c'è stato un attacco ad una pattuglia italiana, per fortuna senza feriti, e poi parleremo con un rappresentante delle comunità islamiche in Italia. Hanno convocato una grande manifestazione contro il terrorismo per la giornata di sabato. Sabato, tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. A Bruxelles nuove perquisizioni della polizia e un arresto, mentre è stato riaperto il tratto della metro di Roma chiuso per un pacco sospetto. Parla il premier francese Valls, evoca il rischio di armi chimiche nelle mani di ISIS. Anche il Belgio annuncia nuove misure. E il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, dice gli attentati di Parigi aggiungono il loro peso negativo sulla fiducia e aumentano il livello di incertezza. Più soddisfatti della situazione economica, meno fiduciosi negli altri, ecco gli italiani, secondo il rapporto dell'Istat. La borsa. Anima, miglior gestore fondi Italia Big 2015 secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Vi presenta... Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno e con la nostra Roberta Pellegatta per questa notizia della quale vi accennavamo pochi istanti fa e che è appena stata battuta dalle agenzie. Eccoci Roberta. Sì, perché ci sono delle novità importanti per quanto riguarda la sorte di almeno uno degli attentatori degli attacchi di Parigi, sorte che fino a pochi minuti fa era assolutamente considerata un giallo, con notizie divergenti a seconda dei media e delle fonti. Ebbene, adesso è ufficiale, quello che è considerato il cervello degli attacchi di Parigi, quindi super ricercato Abdelhamid Abaoud, è morto nell'attacco della polizia nel sobborgo di Parigi di Saint-Denis. La conferma ufficiale, quella che era attesa, è arrivata proprio dalla procura di Parigi. Ricordiamo che il procuratore Molin fino a poco fa diceva che questo attentatore non era tra gli otto arrestati, ma non poteva confermare fosse tra gli uccisi. Ebbene, questa conferma è arrivata, Abdelhamid Abaoud è morto. Ancora invece prosegue il mistero per la sorte dell'altro super ricercato Salah Abdeslam, tra i terroristi del Bataclan. Per il momento tutto. Grazie Roberta Pellegatta per questo punto. Intanto io vi do notizia di tre israeliani che sono stati accoltellati in un centro commerciale a sud di Tel Aviv, in quello che la polizia pensa a questo punto possa essere un attentato nell'ambito di quella che è stata definita l'intifada dei coltelli. In base alle prime informazioni, uno dei due aggressori è stato neutralizzato, mentre un secondo sarebbe riuscito a fuggire ed attualmente ricercato. Uno dei tre israeliani accoltellati sarebbe morto. Questa è la notizia. Intanto saluto Fuad Aodi, che è il presidente della comunità del mondo arabo in Italia. Aodi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, un po' tutte le comunità islamiche, almeno quelle riconosciute in Italia, hanno lanciato una manifestazione per sabato, una reazione finalmente importante, Aodi. Sì, sicuramente noi dobbiamo fare ancora molto di più, ma tutti quanti, sia la società civile, ma compreso le comunità musulmane, le comunità arabe, contro questo feroce attacco verso l'Occidente, verso i paesi civili, verso i paesi democratici, ma anche verso l'Islam stesso. Noi dobbiamo difenderci da questi assassini, da queste persone che sono parassiti, che vivono sulla pelle delle altre, utilizzando la religione, che la religione non c'entra. Noi abbiamo aperto con il presidente dei municipi sabato a Piazza del Popolo, lanciando il nostro appello di aderire a Not in My Name, non possono parlare a nome di nostra, e a seguito tante comunità stanno aderendo per sabato alla manifestazione. A questa manifestazione, e speriamo che sia molto ricca. Aodi, molto brevemente, al di là della manifestazione, che è sicuramente una testimonianza importante da parte delle comunità islamiche, c'è qualcosa di più che queste comunità musulmane in Italia possono fare? Intendo anche iniziare a segnalare i luoghi dove si predica odio, per esempio? Già l'abbiamo fatto dopo purtroppo il primo attacco contro il giornale francese, e con un manifesto Comai. Il manifesto Comai comprende alcuni punti fondamentali. Abbiamo detto con fermezza no all'attacco a questi assassini, no alle moschee fai da te, no alle moschee che gestiti solo a livello personale da associazioni non chiare. Vogliamo la preghiera con la lingua italiana anche il venerdì, vogliamo un censimento regolare, lo stiamo chiedendo da anni alle istituzioni, di quelle regolari, quelle autorizzate. Questo difende anche l'immagine dell'Islam, dei musulmani. Per questo io dico, tramite la vostra preziosa radio, sabato ore 15 a Piazza Santi Apostoli a Roma, italiani, arabi, musulmani, ebrei, anche gli ebrei, con cui ho aperto anche sabato a Piazza del Popolo la manifestazione promossa dal Comune. Quindi di Roma. Sabato alle 15, dove esattamente? A Roma? A Roma, a Piazza Santi Apostoli. A Piazza Santi Apostoli. Contro questi assassini. Not nel mio nome, il titolo della manifestazione, e speriamo che sia veramente partecipata appunto anche dalle comunità islamiche in Italia. Grazie a Fuad Aodi per essere stato con noi. Il traffico, il nostro Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.